Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:10, buona domenica. Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero col fresco, nel senso che in Italia c'è il sole, tutta Italia è abbracciata dal sole, baciata dal sole, però non è che duri, ce lo devo dire, perché oggi parliamo di luoghi comuni. Allora, quando si parla di temperature eccetera, di sole o di pioggia, la risposta è sempre ma non si sa quanto dura. Infatti, in effetti, dicono già che arriverà l'anticiclone africano a scaldarci ulteriormente, ma godiamoci la giornata di oggi, che è anche particolarmente fresca purché soleggiata. Quindi oggi volevo proprio parlare di qualcosa che fosse sufficientemente leggero e adatto a anche per i primi chiacchiericci sotto l'ombrellone, no? Perché molti saranno sulle spiagge, magari non necessariamente al mare, anche sulle coste dei laghi oppure in montagna. Conosceranno nuove persone e così ci si intratterrà regalando ovviamente perle di saggezza. E io oggi voglio assolutamente aiutarvi cadendo nei luoghi più comuni, più scontati, perché è la cosa che mi diverte di più. Se ne avete di luoghi comuni che odiate, magari quelli che detestate sentire ogni volta, oppure avete delle leggende metropolitane da raccontarci, c'è la nostra pagina di Facebook, Il riposo del guerriero, per poterle scrivere, oppure gli sms, il numero ve lo dico subito: 349-238-6666. Oggi, come sempre, giocheremo anche con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sul sito libreriarizzoli.it, quindi libri sia cartacei sia elettronici. La risposta al mistero può essere una notizia della settimana o qualcosa o qualcuno di particolarmente conosciuto. Per arrivarci dovrete ascoltare gli indizi. Più indizi ascolterete e più il premio si abbasserà. Ma partiamo da 1000 euro e il primo indizio è questo. Grande Moby Dick, dove saranno tutti gli amanti che hai? Canzone famosissima, potete prenotarvi fin da adesso, vi ricordo che si gioca alle 11:30, il numero 800 24 00 24. E per introdurre la puntata di oggi non potevo che scegliere Daniele Silvestri. Quando io parlo, tu parli; quando io rido, tu ridi; quando io piango, tu piangi; quando io dormo, tu dormi; quando io parlo, tu parli; quando io rido, tu ridi; quando io piango, tu ridi. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Io mi stupisco ogni volta nell'intelligenza del testo di questa canzone. Devo dire che con questo sicuramente Silvestri, non che ne avesse bisogno, però aveva fatto sicuramente un gran salto di qualità. Le 10:15, aggiornamenti sul traffico, poi entriamo nel vivo dei luoghi comuni. Il riposo del guerriero. Belle code, mi dicono che molti appunto stanno raggiungendo le località di mare. Questo mi fa piacere, perché adesso vi diamo sicuramente una mano per le dolci conversazioni con persone magari che fino a ieri non conoscevate. Andrea Ballarini, ciao, buona domenica. Buongiorno. Allora, Andrea scrive il manuale di conversazione, che è una rubrica del Foglio, e è uscito appena un libro, da poco pubblicato, si intitola Chi massaggia il manzo di Kobe, edito dalla Lai. Io chiaramente sono partito dal tuo romanzo per costruire la puntata di oggi, vedi che onore, per quello sei il primo. Perché io adoro i luoghi comuni, dico finalmente qualcuno ha scritto un saggio che raccoglie come il che cosa dire durante le conversazioni più inutili che possiamo sostenere ogni giorno. Innanzitutto, chi è che massaggia il manzo di Kobe, che ho scoperto tra l'altro deve essere massaggiato con il sake, non con le mani nude? Forse è una leggenda, nel senso che non ci sono testimonianze ufficiali che che attestino che è vero questo. Però quando ordini del manzo di Kobe c'è sempre qualcuno che ha questo manzo particolare giapponese, sì, allevato con delle tecniche particolari, per cui è tenerissimo, un sapore buonissimo e costa un'ira di Dio di denaro, c'è sempre qualcuno che ti spiega che sì, è così tenero, è così buono perché viene allevato mangiando birra e poi negli ultimi mesi viene massaggiato con del sake da uno che sta lì e certo che è questa cosa, che è pagato per quello ovviamente. Esatto, certo. Mi faceva molto ridere l'idea di questo qui che come lavoro fa il massaggiatore del manzo di Kobe. Allora sfatiamo il mito, in realtà mangia semplicemente grano, neanche la birra, non è vero, per cui è più semplice di quello che si possa pensare. È un po' come la storia dei sigari cubani, no? Che vengono arrotolati sulle cosce delle cubane. Esatto, sì sì, ci sono queste cose così, ma ce ne sono praticamente per ogni prodotto, sul vino, ce n'è, cioè qualunque cosa insomma, e quindi mi aveva colpito il fatto che tutti più o meno sentiamo e ripetiamo le stesse cose e ho cominciato a raccoglierle e poi con la rubrica del foglio alla fine è venuto fuori questa specie di panorama della banalità quotidiana in cui tutti noi viviamo immersi insomma. Ma anche perché ci capitiamo per forza insomma, adesso io poi leggendo il tuo manualetto così ho detto quante volte l'abbiamo detto, per esempio il vino bianco fa venire mal di testa, ovvio. Sì, esatto. Quando si ordina il vino c'è sempre qualcuno che dice no, io il vino bianco non, perché mi fa venire mal di testa. Allora poi è la buona occasione per alzarsi e dire sono i solfiti e poi basta, cambiare da un argomento, parlare d'altro, cioè lascio immaginare una competenza approfondita e millimetrica sulle tecniche di vinificazione. Ecco, noto tra l'altro che nel libro spesso ci sono dei trucchi, ovvero dire delle cose che fanno in modo di far credere agli altri che tu conosca l'argomento, ma metterli sull'avviso che sei talmente preparato che è meglio cambiarlo. In realtà non ne sai assolutamente niente. Funziona infatti, così? Infatti. No, infatti è esattamente così. Ci sono proprio delle cose che devi dire per dare l'immagine di essere molto competente. Davanti a una mostra d'arte, inevitabilmente devi fare dei paragoni con altri artisti. Allora, di Leonardo apprezzi lo sfumato, di Caravaggio i chiaroscuri, di Cézanne le pere. Basta sapere questo e poi non importa. Cioè, dici questa cosa e hai suggerito una approfondita conoscenza della storia dell'arte. Certo, una preparazione che gli altri ovviamente non oseranno sfidare. Il problema è che se poi trovi qualcuno che ne sa veramente qualcosa. In quel caso basta cambiare argomento di punto in bianco e basta. Mai entrare nel contenzioso, se no sei finito ovviamente. Senti, tanto il 90% delle discussioni non richiede una conoscenza reale, insomma, quindi... Assolutamente no, infatti bisogna soltanto basarsi su luoghi comuni, di solito si vince sempre. Senti, prima Barbara Alberti ha citato la Recherche e che va nominata così, non si può dire il titolo in tutto lungo. No, assolutamente, in originale è sempre la Recherche, mai alla Recherche di Tom Perdue, perché sennò si capisce che sei uno un pochino secchione che lo ha conosciuto questo libro soltanto attraverso la scuola, invece devi essere uno che lo tiene sul comodino, il tuo libro de Chevet, e quindi devi sempre citare questa cosa lasciando immaginare tutto il resto insomma. Senti, c'è qualcuno che l'ha letto secondo te alla fine? Sì, qualcuno l'ho anche conosciuto e ho prove che lo ha letto, però sono rarissimi casi in effetti. Guai non averlo fatto ovviamente. Mai, mai. No, c'è uno fantastico che mi ha detto io la rileggo tutti gli anni e io volevo applaudire perché è meraviglioso. E va bene. Senti, tu dici che scrivi ogni tanto romanzi o libri come questo perché non ti basta essere copywriter, non guadagni abbastanza, eppure una volta i copywriter guadagnavano tanto. No, in realtà no, non è legato alla dimensione economica questo desiderio, ma è proprio perché quando fai scrivere la pubblicità ci sono 150 persone che ti modificano tutto quello che scrivi, dal cliente all'interno dell'agenzia, insomma, quindi tra la tua idea originale e quella che esce spesso c'è una distanza continentale. Invece nei libri insomma c'hai un paio di persone, hai l'editor, l'editore, ma è un poco di più insomma, quindi è un tentativo di scrivere delle cose che ti rispecchino un po' di più insomma. Se dovessi integrare i miei guadagni professionali con quelli legati ai libri, non voglio pensare dove vivrei, ecco. Comunque c'è un luogo comune, ce ne sono tanti legati anche alla pubblicità. Uno per esempio, che la pubblicità sia la cosa più importante e più interessante della televisione. Forse a volte anche per alcuni programmi, però non è così un luogo comune, non è così scontato. No, è vero. È vero a volte. No, ma nei luoghi comuni non è detto che debbano essere per forza falsi, a volte hanno dei grani di verità, ed è questo che consente la loro smerciabilità universale, perché qualcosa di vero c'è in quello che dice, quindi ci si può trovare d'accordo, e ciò spesso dà il là per aggiungerne ulteriori e andare avanti così a botte di banalità, insomma. Ecco, il tuo libro è diviso in argomenti, ovviamente, quindi si parla di libri, di cinema e di vita quotidiana, appunto, di televisione, di pubblicità. C'è qualche argomento particolarmente difficile, cioè che difficilmente le persone toccano o sfiorano quando si trovano a doverne parlare, perché magari hanno paura di non saperne niente, oppure perché semplicemente non è sufficientemente interessante? Ma sì, ce ne sono molti legati però alle proprie conoscenze personali, quindi è difficile individuare un argomento che sia universalmente estraneo a tutti. Ci sono argomenti che singolarmente sono ignorati dalle persone, quindi quando tocchi quell'argomento vedi che dall'altra parte c'è un leggero irrigidimento, allora se non sei crudele parli d'altro. Insomma, il jazz, per esempio, è un argomento che segmenta molto l'uditorio, perché c'è chi lo ama e allora vabbè, sei finito, perché comincia a raccontarti di tutto quello che gli piace del jazz citando nomi sconosciuti. Se invece becchi quello che non ne sa niente, è fantastico, perché lì allora basta dire due o tre cose e suggerisci di essere un finissimo conoscitore. Certo, poi ti inventi anche qualche nome e funziona sempre, basta che sia straniero, è difficile, esatto. Poi uno che ti dica, ti dice ah sì, l'ho sentito, l'ho ascoltato, poi invece magari sì, non infatti, esiste. Occasionalmente su questo c'è proprio una frasetta che dice: se qualcuno nomina dei musicisti stranieri sconosciuti, ricordare che durante il fascismo i nomi dei jazzisti americani venivano tradotti, vedi Luigi Braccioforte e Beniamino Buonuomo, Benjamin Goodman e Louis Armstrong, sì. E quindi puoi dire questa cosa e tutti restano, ah però non ci avevo pensato, è così insomma. Senti, uno degli argomenti tabù è il sesso. Quali sono i luoghi comuni, secondo te, più accreditati e più utili per mantenere una conversazione quando si parla di quello? Ma ce ne sono tanti, nel senso, vabbè, una delle cose fantastiche è che sì, quando parlando si citano dei gay e subito si aggiunge, ah ma io non ho niente contro i gay, alcuni dei miei migliori amici sono gay, e questo è già fantastico, come se ci fosse bisogno di spiegarlo, no? Oppure una sveltina ben fatta ha sempre il suo fascino, piace a tutti e non impegna. Certo, per cui tu non puoi che dire ok. Però certo, secondo le statistiche gli uomini tradiscono più delle donne, ma con chi? Eccetera, insomma ce ne sono. Certo, perché altri. I numeri poi devono combaciare, ovviamente, se no c'è qualcosa che non quadra, che noi avevamo anche discusso. L'ultima domanda per te, Andrea, sì. È questa, ma c'è un luogo comune dal quale sei partito per poi scrivere il libro, uno che ti è piaciuto in modo particolare? In realtà non in modo particolare, nel senso che è stato un lento processo di accumulamento legato proprio alla quotidianità dove vivo tutti i giorni. Io da 10 anni vivo a Roma, sì. E una cosa che avevo notato è che i romani hanno una velocità di reazione alle situazioni, trovando delle uscite umoristiche che a Milano sinceramente non c'era. E allora il tutto, se vuoi, è nato da un episodio in Piazza della Piramide a Roma, che è una piazza centrale molto incasinata, un traffico infernale. Una volta c'era un enorme SUV che impicciava le manovre di un tassista, quindi diventa verde, il SUV si muove, il tassista si muove, quello sta consultando chiaramente il navigatore e quindi lo impiccia di nuovo, fermo, un altro verde, così per un paio di volte. Alla terza volta il tassista ha abbassato il finestrino e con grande leggerezza ha sporto la testa, ma calmissimo, ha detto oh, dire al navigatore di calcolare il percorso bannazzo, e poi gli ha detto dove andare. E questa cosa qui a me era molto divertito, anche se non è un luogo comune, però era confermava il fatto che i romani sono molto rapidi nelle battute. Questa cosa qui ha cominciato a farmi germogliare l'idea del libro, della rubrica in realtà, perché poi sì, certo, è un libro che arriva dalla rubrica del foglio, esatto. Quindi se volete mantenere alta la vostra conversazione senza dire assolutamente niente, chi massaggia il manzo di Kobe di Andrea Ballarini, edito da Lai. Grazie Andrea, ciao, buona giornata. Grazie. A questo punto parlando di luoghi comuni, c'è un luogo dove è difficile dire delle cose sensate, e spesso lì i luoghi comuni se ne sentono veramente fini. fin troppi, e anche a sproposito parlo dei funerali. E così il trio, ricordate, Marchesini, Solenghi, Lopez, l'hanno rivisto in questo modo. Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Stia tranquilla, a tutto c'è rimedio fuorché alla morte. Beh, io sono un po' qui per questo. Beh, non sarà poi la morte di nessuno, no? Era tanto allegro. Era tanto becco. Specie negli ultimi anni. Prima o poi capita a tutti. Di essere becco o di morire? Faccia lei. Finché siamo in ballo, dobbiamo ballare. Come si dice? Oggi a te, domani a lui. Siamo tutti nella stessa barca. È stato già detto, siamo nati per soffrire? No. Il riposo del guerriero. Questa domenica stiamo parlando di luoghi comuni e leggende metropolitane, ma adesso c'è una sorta di gioco di parole. Professoressa Bonato, buona domenica. Buona domenica a lei. Parliamo di luoghi comuni nel senso di luoghi comuni, cioè posti dove si sta insieme, ed è un altro modo per leggere i luoghi comuni. Ma voglio partire proprio da un luogo comune, cioè quello che dice che ormai le feste, ci sono delle feste che vengono costruite esclusivamente per il business, come per esempio San Valentino, Halloween, eccetera. Vogliamo partire allora da queste feste e capire se davvero nascono solo per il business o possono essere utili anche alla comunità del luogo? Allora, io rispondo subito che sono assolutamente utili alla comunità del luogo, e diciamo che per analizzare quelle che io ho etichettato molto in maniera molto semplicistica feste nuove, sono partita dall'analisi di quelle che noi consideriamo feste tradizionali, e alla fin fine mi sono accorta che in queste feste nuove comunque c'è qualcosa che già conoscevamo, qualcosa che abbiamo già sperimentato. Forse l'esempio più banale può essere quello di Halloween, una festa alla quale io mi sono avvicinata anni fa perché ne avevo già trattato in un libro dove ho parlato appunto di feste tradizionali, e mi sono accorta che nella pratica del dolcetto scherzetto noi riconosciamo quella che è l'acquesto, che abbiamo praticato da sempre e che quindi secondo me fa proprio parte del nostro DNA culturale. Feste nuove, lei ha parlato di luoghi comuni dove queste feste si realizzano. Queste feste nuove hanno luogo soprattutto nelle piazze, sono i luoghi pubblici che stanno richiamando le persone, esattamente la piazza come succedeva in passato, come succedeva nella tradizione, nei paesi. Questo adesso invece capita nelle città. Ecco, quindi comunque sia la festa ben venga in ogni luogo e sempre. Lei tra l'altro è docente, certo, di antropologia culturale, per sì, questo si occupa di queste cose. Ecco, professoressa, sono aumentate secondo lei negli ultimi tempi le feste? Credo di sì, perché hanno tirato fuori il tutto. È un modo forse anche per i comuni per far cassa, no? No, io non discuto assolutamente che queste feste abbiano un ritorno economico notevole, soprattutto certi tipi di feste, però da lì a vederle esclusivamente come motore commerciale, ecco, io ci andrei cauta, perché comunque la festa risponde sempre ad un desiderio, a un bisogno, a una voglia forte di socialità. Ecco, quindi comunque piace sempre. Tra l'altro nel libro sono citati anche i rave party, che di solito sono condannati, no? Cioè uno si aspetterebbe di leggere chissà cosa, e invece così vengono raccontati come assolutamente un gran bel luogo di socialità. Poi vabbè, sappiamo benissimo che le caratteristiche dei rave party sono il consumo smodato di droghe, di alcol. Però la festa in sé è eccesso, è trasgressione, lo è sempre stata. A me viene in mente, che so, il postlatch studiato da uno degli antropologi più famosi, Boas, in America. C'erano gli indiani che risiedevano nella Columbia del Nord, che si chiamavano, una popolazione che si chiamava Quakutle, e questa popolazione periodicamente organizzava queste cerimonie che si chiamavano appunto potlatch, durante le quali mangiavano, bevevano in maniera esagerata, dopo, scusi l'espressione, due dita in gola, rigettavano tutto quello che avevano mangiato da per capo. Ricominciare. Esatto, quindi il consumo esagerato c'è sempre stato, non è, il rave party non è niente di nuovo, se non che c'è la presenza della musica techno, un determinato tipo di abbigliamento, le modalità di diffusione, di propagazione, di pubblicizzazione dell'evento stesso, quindi il luogo, l'ora, il giorno, questi ovviamente sono cambiati perché si sono adeguati ai tempi. Certo, beh, c'è internet che dà la possibilità ad esempio di avere un'informazione certo. Più veloce, volevo citare questa cosa semplicemente perché ho apprezzato la trasversalità del volume, per cui si parla veramente di tutte quelle che sono le feste senza nessun pregiudizio o preconcetto, e questa è una cosa ovviamente che lo rende ancora più interessante. Io volevo così aprire una parentesi anche sulle feste di piazza, quando ci sono le persone che intrattengono proprio in piazza, gli artisti da strada, diciamo così, che si ha sempre l'impressione che in Italia non siano mai sufficientemente apprezzati, come invece succede spesso all'estero. Chi è stato per esempio ad Amsterdam, ma anche a Londra o a Parigi, vede come le persone creano veramente il cerchio, che è lo spettatore che osserva, e poi alla fine con grande volontà, anche voglia, l'apprezzamento è dato dal soldo gettato nel cappello. Certo, e non si tratta di 10 centesimi, ma a volte anche di $2, $5, $10, €10. Ma in Italia come sta andando secondo lei questa? Allora, guardi, le rispondo da un contesto che ho potuto verificare in questi giorni. Io in questo momento sono al mare, in queste sere, uscendo in questa cittadina di mare, ho potuto vedere questi artisti di strada all'opera. Ma secondo me al momento nel nostro paese, adesso non voglio generalizzare, però qui dove mi trovo oggi già... parliamo di luoghi comuni, quindi si può anche generalizzare. Ecco, secondo me sono comunque persone che vengono ingaggiate dall'amministrazione comunale piuttosto che dalla proloco locale per questi spettacoli, vengono direttamente pagati, retribuiti da questi enti appunto che organizzano questi spettacoli. Finora non mi è capitato in Italia di vedere appunto artisti di strada che vengano apprezzati, come diceva lei, così come succede all'estero. Sì. Il concetto è che noi all'estero li apprezziamo, è proprio questo, cambiamo proprio l'atteggiamento. Esatto, è vero, è vero, perché noi quando andiamo all'estero ci fermiamo, li guardiamo con molto più interesse che non come facciamo qui nel nostro paese, perché tutto quello che... Allora, è un paradosso, però tutto quello che è straniero è molto più interessante, desta la nostra curiosità e il nostro interesse, e per contro ci spaventa, perché adesso mi viene proprio da fare il collegamento con le leggende metropolitane, i luoghi comuni presenti nelle leggende metropolitane. Uno dei luoghi comuni in assoluto che diciamo compare e traspare dalle diverse categorie di leggende metropolitane è proprio questa paura dello straniero, di quello che non appartiene alla nostra cultura. Ecco, quindi è interessante questa visione. Fra l'altro, tra pochissimo parleremo proprio di leggende metropolitane. In qualche modo ci ha dato l'opportunità di introdurre l'argomento. Laura Bonato, Tieni il tempo, riti e ritmi della città. Franco Angeli, grazie professoressa, buona domenica. Grazie a lei, buona domenica. A proposito, siccome molti stanno andando al mare, vi do una mano. Allora, potreste dire per esempio: le liberi le ho già fatte, e anche le olie. E se qualcuno però dovesse farvi notare che sono la stessa cosa, allora potete replicare dicendo che dall'aliscafo le isole sembrano tutte uguali, per cui non vi siete accorti. Poi potete notare che le vacanze estive sono un'invenzione del dopoguerra, e in questo modo potete dimostrare la solida vostra preparazione storica, ovviamente. Poi dovete assolutamente dire che il mare fa bene perché c'è lo iodio, e questo è il motivo perché vostra nonna vi tirava giù dal letto al mattino prestissimo per andarlo a respirare. Poi informatevi del fattore di protezione della crema solare del vostro vicino di ombrellone. Se per caso fosse più alto della vostra crema come fattore, allora cambiate assolutamente discorso. E ancora, se volete così parlare di vacanze, potete dire che negli anni 60 i bambini della classe media andavano in albergo in Liguria e quelli della classe medio-bassa andavano invece in pensione sull'Adriatico. Poi per fortuna è arrivato il 68. E quando parlate di vacanze all'estero, fate finta di non sapere mai distinguere fra Kathmandu e Timbuktu, perché tanto ci si va in aereo e quindi non si capisce bene dove si trovino questi posti. Parliamo di leggende metropolitane, c'è Paolo attivissimo. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Allora, il disinformatico e attivissimo.net è il sito, e vabbè, poi c'è anche la tua trasmissione sulla rete svizzera. Tutti i venerdì, Paolo, non mi ricordo. Sì, esatto. Ok, perfetto, mi sono ricordato allora. Senti, io direi di partire, visto che parliamo di luoghi comuni e di persone che si stanno muovendo con l'auto oggi. State molto attenti a qualcuno che vi dà i biglietti da visita, perché potrebbero essere capaci di stordirvi grazie alla burundanga. Sì, questa è una vera e propria leggenda metropolitana. Ma dai, non avrei mai pensato. Ma c'è gente che purtroppo ci crede e si preoccupa, in realtà senza alcun motivo. Non è materialmente possibile utilizzare queste sostanze, che in realtà esistono, ma non sono utilizzabili usando come veicolo i biglietti da visita. Ecco, scusa, però una parentesi, ma esiste veramente il nome burundanga o ho inventato anche quello? Sostanze con questo nome circolano in alcuni paesi, soprattutto in America Latina. Però è il metodo di propagazione che non è assolutamente plausibile, ma se si usasse quello vero che richiede la somministrazione tradizionale, addio la leggenda metropolitana, non avremmo più la possibilità di attingere alla paura dello straniero, come dicevate prima. Certo, certo. Allora spieghiamo, sta girando su internet questa mail che vi avvisa di non accettare i biglietti da visita da sconosciuti, perché cosa succede? Appena preso in mano il biglietto da visita, voi comincerete a respirare il burundanga e sarete storditi, quindi poi potreste essere derubati dai famosi sconosciuti, giusto? Sì, questa è la sintesi della storia. Senti, tu quando vai a caccia di bufale, poi spesso fai proprio un lavoro sul campo, nel senso che guardi fotografie, ingrandisci, cerchi di capire se si tratta di fotomontaggi. Sì, molto spesso infatti le leggende vengono corredate da fotografie impressionanti. Con l'aiuto degli esperti di analisi delle fotografie si possono però rivelare gli errori che sono stati inclusi nei fotomontaggi, perché in effetti spesso di fotomontaggi si tratta, oppure si tratta di fotografie autentiche però tolte dal proprio contesto, per cui assumono un significato completamente diverso da quello originale. Ecco, tra l'altro ci sono invece delle notizie che sembrano delle bufale, poi invece non lo sono affatto. Per esempio quella si chiama Advicor, se non mi sbaglio, l'azienda inglese che sta facendo girare un documento. In realtà il documento era interno all'azienda, poi qualcuno chiaramente l'ha divulgato attraverso internet, per cui è uscito dall'azienda, dove ci sono indicate le parolacce che i manager italiani potrebbero dire, quindi sapersi difendere. Sì, questa è una delle rare storie, leggende metropolitane, che in realtà è basata sulla verità. Nel senso che un'azienda effettivamente fece circolare questo comunicato per indicare e avvisare i propri dipendenti che certe espressioni non erano assolutamente tollerabili. Ovviamente in classico spirito British fu deciso di citare specificamente le frasi considerate inaccettabili, con un risultato per chi soprattutto mastica entrambe le lingue assolutamente esilarante. Questa è autentica. Ecco, quindi insomma è vera, anche perché le parole sono, tra l'altro, sono anche particolarmente vere, è molto probabile che i manager italiani le dicano quando si arrabbiano. Paolo, c'è una bufala, per esempio quelle relative ai messaggi che arrivano attraverso internet relative alla salute di bambini molto spesso, e lì è molto difficile capire se si tratta di una bufala oppure se davvero c'è una richiesta. Contra spesso con le leggi sulla privacy, che chiaramente impediscono agli istituti ospedalieri di informare i giornalisti se una persona è realmente ricoverata, se è malata o meno, e quindi molto spesso non si può andare più in là di tanto, anche perché poi scatta un certo rispetto per la possibile malattia altrui. Però il consiglio che mi sento di dare in base all'esperienza è che queste storie che girano su internet sono quasi sempre fasulle. Se si tratta di una donazione di sangue, per esempio, per bambini leucemici, magari il bambino c'è o c'è stato diversi anni fa, ma nel frattempo di solito è già stato curato e comunque le donazioni specifiche per la persona in molti paesi sono vietate, quindi non è il caso di precipitarsi nell'ospedale più vicino soltanto perché si ha un certo gruppo sanguigno. Sarebbe molto più civico e sensato andare in ospedale a donare sangue a prescindere. In generale, certo, senza aspettare la mail. Ho ancora una domanda per te dopo gli aggiornamenti sul traffico, e ti voglio chiedere, non so, quali sono state le bufale più eclatanti, quelle che in qualche modo ti hanno colpito di più, magari quelle che ti hanno costretto a studiare di più per poi scovare la bufala. Tra pochissimo, intanto, gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Con Paolo attivissimo stiamo parlando di bufale. Allora Paolo, quali sono state quelle secondo te più eclatanti o quelle più difficili da scovare? Credo che le più eclatanti, nel senso di più sorprendenti per quel che mi riguarda, una è stata quella della leggenda dei lemming. Non so se avete presente questi animaletti, circola la è un modo di dire. I lemming sono dei personaggi di un videogioco molto famoso, tra l'altro, basato proprio su questa storia, ossia che i lemming, quando la loro popolazione supera una certa quota, un certo livello, si va in sovrappopolazione, allora decidono di suicidarsi in massa correndo verso il mare. E è una immagine molto forte, abbastanza inquietante. Mi ricordo da bambino questa storia mi aveva scosso parecchio, e ho scoperto poi nelle mie indagini che in realtà è una leggenda inventata dalla Disney. C'è un documentario del 1958, Wild, White Wilderness, premiato addirittura con l'Oscar e con l'Orso d'Oro al Festival di Berlino, se non ricordo male. E in questo film veniva presentata come realtà questa storia del suicidio in massa. In realtà è assolutamente inventata, tant'è vero che poi ci sono state diverse smentite da parte di chi si occupa seriamente di queste cose, ma ormai il modo di dire è entrato nel linguaggio comune, tutti siamo andati incontro a questa cosa, anche se sapevamo, ci siamo rovinati come se fossimo lemming. Ma anche perché da Disney proprio non me lo sarei aspettato, non capisco dove sia l'informazione in questo senso. Ma ci sono tante piccole chicche che riguardano la Disney che non sono leggende metropolitane. Si parla spesso dei messaggi subliminali nascosti nei film, nelle copertine. In realtà ci sono dei fatti reali che riguardano la Disney, per esempio in Fantasia, classico film che credo tutti abbiano visto almeno una volta nella propria vita, ci sono delle scene tagliate perché l'originale di Fantasia ha delle scene a contenuto estremamente razzista che oggi sono impresentabili. Ho acquistato recentemente il Blu-ray di Fantasia per verificare, e le scene sono state rimontate per far scomparire un personaggio di colore che faceva da schiavetta ai vari centauri nella Sinfonia Pastorale. Ah, ecco, quindi c'è una scelta proprio precisa. E qualche bufola che invece hai fatto, o dove così in qualche modo ci sei cascato, cioè hai ritenuto fino alla fine di trovarti di fronte a una cosa giusta, poi invece hai scoperto la verità? Piccole cose, per esempio c'era una fotografia di Michael Jackson pubblicata poco dopo la sua morte che sembrava essere un fotomontaggio, in realtà poi ho dovuto ammettere che mi ero sbagliato e che la fotografia era autentica, ingannevole ma autentica. Oppure cose come la storia, alcuni anni fa circolò l'avviso che le tasse sui CD vergini sarebbero aumentate a dismisura, addirittura dell'800%. Sì, per la famosa CIA in poche parole, esatto. No? E la cosa mi sembrò assolutamente improbabile. Poi, controllando, grazie anche agli esperti di settore che vanno sempre consultati in questi casi, feci marcia indietro subito perché mi diedero le prove del fatto che effettivamente ci sarebbe stato questo aumento, che è quello che paghiamo oggi. Sì, certo, perché così le copie, per difendersi dalla pirateria, l'escamotage, sarebbe stato questo. Non so quanto abbia funzionato, io credo molto poco. Paolo attivissimo, ti ringrazio ovviamente e grazie per il lavoro che fai per tutti noi. E vi ricordo il sito attivissimo.blogspot.com. Attivissimo è il cognome di Paolo, è vero che lo è attivissimo, ma in realtà è anche il suo cognome. Grazie Paolo, ciao. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Continuiamo a parlare di luoghi comuni nel riposo del guerriero, e c'è la nostra Francesca Dragotto, la nostra glottologa. Ciao Francesca, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno e buongiorno a tutti. Ecco, non ansimerà più al telefono perché nel frattempo è diventata mamma. Ecco, esatto, da 23 giorni. C'è stata una puntata imbarazzante, lo ricordo per gli ascoltatori, no, imbarazzante per Francesca, perché ha avuto questo attacco di così di ansia e quindi non riusciva a respirare, faceva fatica, ma tu devo dire che potevi però dire ci sentiamo più tardi, invece no, hai continuato a parlare. Sei stata... Sì, anche perché non era poi eccessivamente fastidioso e poi io ero convinta che non si sentisse, per cui... Gli ascoltatori invece no, ma a questo punto, insomma, adesso sei mamma rilassatissima, immagino, e pronta a raccontarci i luoghi comuni nella nostra lingua, penso che ne avremo una valanga. Sì, tantissimi, rilassatissima non tanto, però di luoghi comuni sono carica, potremmo andare avanti per ore. L'idea è quella del consolidamento di forme che inizialmente sono scorrette, quindi sono una sorta appunto di bufala, bufala culturale, bufala linguistica, ma che poi invece col tempo finiscono per diventare le forme di riferimento. Mi vengono in mente essenzialmente due possibilità di interpretazione. Il primo legato all'idea proprio delle forme fisse per eccellenza, perché tutto quello che poi diventa proverbio, modo di dire, sentenza, costituisce appunto un consolidamento di un qualcosa che fino ad un certo punto non c'era, poi compare per lo più su suggestione, perché è appunto collegato a un evento che ha impressionato, e poi diventa un modo di dire di riferimento per tutti quelli che si identificano in una certa cultura. Dall'altra, un altro filone di interpretazione mi sembra quello delle forme dell'uso inizialmente bollate come scorrette, quindi non mi riferisco più a forme complesse come i proverbi, ma a cose del tipo a me mi, quindi si dice o non si dice, corretto o scorretto. È un rafforzativo, no? È un rafforzativo che naturalmente dalle grammatiche normative, quindi dalla grammatica che si studia a scuola, non può essere tollerato, perché sarebbe come dire, è come dire due volte la stessa cosa, perché mi è la forma contratta di a me. Però se distinguiamo tra la grammatica normativa e quella descrittiva, ovvero quella che guarda poi a quello che il parlante effettivamente usa per comunicare, soprattutto per comunicare il proprio stato d'animo, a me mi diventa non solo una forma comprensibile, ma l'allargamento della barriera fonetica, cioè il fatto che ci sia più struttura, qualcosa che rimane più impresso all'orecchio rispetto al semplice mi o rispetto al semplice a me, fa sì che a me mi diventi la forma eletta, la forma di riferimento per il parlante. Ora, il fatto che per a me mi ci sia questa spiegazione ha dato adito anche a una medesima spiegazione per alternative diverse. Prendo un altro esempio, sì. D'accordo con l'apostrofo, senza apostrofo. Ecco, appunto, se sono in accordo, quindi di apostrofo accordo sarebbe, no? Molti però sono convinti, e ci sono interi gruppi di discussione, vi basti andare sul sito della Crusca per vedere quanto ci sia animazione intorno alla possibilità di scrivere d'accordo senza apostrofo. Molti sono convinti che si possa scrivere senza, per via di quel processo di univerbazione, quindi costituzione di una sola parola a partire da due, che in altri casi, penso a da per tutti, che ha dato luogo a dappertutto, è stato poi appunto assorbito nella norma. Nel caso di d'accordo siamo ancora lontani da tutto ciò, quindi è ancora bene scrivere di apostrofo accordo, e probabilmente questo uso rimarrà, quindi questa la forma originaria, quella normativamente accettata, rimarrà proprio perché è possibile inserire ulteriore materiale tra la preposizione di e il sostantivo accordo. Ecco. Pensiamo alla forma di comune accordo. Esatto, è vero. Ti fermo qua, c'è il GR, poi continuiamo a parlare. Grazie al cielo lo scrivo con l'apostrofo e posso continuare così, e questo per me è già un buon paletto. Il riposo del guerriero. Le 11:07 minuti, il riposo del guerriero, continuiamo a parlare di luoghi comuni e leggende metropolitane. C'è Francesca Dragotto, la nostra glottologa, in questo momento al telefono. Francesca, è arrivata subito una domanda che mi riguarda anche personalmente, perché dice: è il piuttosto che dei nordici ne vogliamo parlare? Quindi, allora, una volta per tutte, spieghiamo. Beh, si tratta di un'innovazione sintattica che per la grammatica la grammatica normativa costituisce un'aberrazione, ma che dà piena dimostrazione di come in realtà spesso attraverso l'uso riesca nel giro di poco tempo a imporsi, dando agli parlanti l'impressione di avere a che fare con una norma tollerata dalla lingua. Naturalmente si tratta di una forma non accettabile, almeno in contesti normativi, perché piuttosto presuppone un rapporto di comparazione, quindi un confronto che invece nel nuovo piuttosto che non c'è. Quindi se io dico mangio mele piuttosto che pere, il piuttosto che lo sto utilizzando nel senso di una coordinazione giusta e positiva, cioè mi spiego, diventa un equivalente di mangio mele o pere, quindi si perde la presenza di confronto che invece caratterizza il piuttosto. Aspetta, che ti abbiamo persa per un attimo, si sente male Francesca, quindi allora scusatemi. Niente, okay. Dicevo che si perde nel nuovo piuttosto che viene utilizzato nel senso di una coordinazione che oppone, come se fosse un si perde completamente quel valore di comparazione che invece è caratteristico della forma originaria piuttosto che. Ecco, quindi posso dire vado in montagna piuttosto che al mare, nel senso che il mare lo sto scartando. Esattamente, allora in questo senso è corretto, preferisco andare al mare piuttosto che in montagna, ho fatto un confronto e tra le due possibilità ne ho scelte una, mentre nel nuovo piuttosto che la forma perde completamente l'idea del confronto e viene invece ad indicare una semplice successione di elementi tra i quali si sceglie, mangio mele piuttosto che pere. Tra l'altro è da notare una forma ancora più brutta a sentirsi, cioè quindi quella del piuttosto che è ripetuto in fine di frase non seguito da alcun elemento. Mi piacciono le mele piuttosto che le pere piuttosto che. Ah, ok, lasci i punti di sospensione. Esattamente, sì, è piuttosto diffusa. Io ho fatto una ricerca su questo piuttosto che è iniziato a diffondersi circa 3 anni fa nel contesto dell'italiano regionale lombardo, in contesti inizialmente legati all'economia. Sì. E la radio devo dire che è stato il primo veicolo di diffusione di questa forma che, fatemi dire da linguista, purtroppo sta diventando pan italiana, quindi si sta diffondendo in tutta Italia, c'è soltanto la speranza che conduttori avveduti non la utilizzano perché si possa inibire la diffusione a livello capillare tra i diversi livelli della lingua. Ahimè, anche i conduttori hanno bisogno della Dragotto ogni tanto per mettersi a posto perché... Questa è una bufala che naturalmente non ha niente a che vedere con l'animale, cioè, sventiamo questa. Ecco, perché diciamo così, poi ti lascio, ma perché diciamo appunto una bufala? Lo dico soltanto se poi mi fai giocare la carta finale, che è perché allora ho cercato un esempio che mettesse insieme i due filoni di cui parlavamo prima, quindi se mi permetti di chiudere con la spiegazione del perché piantare qualcuno in asso è una forma originariamente sbagliata che però ormai da tutti viene sentita come giusta, ti dico qual è secondo me l'ipotesi interpretativa. Va bene, allora quando diciamo mi ha piantato in asso non vuol dire assolutamente niente, perché non la ha forma... niente a che vedere con l'asso, esattamente. Di picche magari, ecco. Esattamente. Esatto, però asso di picche ha a che vedere con piantare qualcuno in asso, è una forma moderna che prende origine dal fatto che ormai per tutti i parlanti asso ha a che vedere con la sola, passatemi il termine dell'uso, in ambito affettivo. Certo. Quindi quando, la forma corretta invece originariamente era piantare qualcuno in nasso. Con la N, con N di Napoli, nasso. Con la N di Napoli. E che cos'è? Nasso è un'isola che ha a che vedere con uno dei miti più fiorenti e famosi della storia, quello di Arianna e Teseo, o Teseo che dir si voglia a seconda che usiamo l'accentazione latina o quella greca. È il mito del Minotauro, al quale vengono sacrificati in pasto ogni anno 7 giovani maschi e 7 giovani femmine ateniesi, fino a quando il figlio del re di Atene, per l'appunto Teseo, si rifiuta di vedere ogni anno sacrificati tanti compatrioti e decide di imbarcarsi sulla nave che porta a Creta. Il Minotauro è per l'appunto a Creta all'interno del famoso labirinto. Labirinto, sì. Esattamente. La figlia di Minosse, Arianna, vede Teseo, un giovane di bellissimo aspetto, se ne innamora follemente e quindi per fare in modo che non venga mangiato dal Minotauro, gli regala una spada, gli dà di nascosto durante un banchetto una spada e un gomitolo. La tradizione dice che il gomitolo può essere o di lana oppure d'oro, in maniera tale che si possa vedere al buio. Naturalmente Teseo con il gomitolo riesce a ritrovare la strada d'uscita dal labirinto una volta dopo aver ucciso il Minotauro. A quel punto Arianna pensa che il suo sogno d'amore sia coronato. Pronta a partire, si imbarca con Teseo alla volta di Atene, ma invece che arrivare ad Atene viene per l'appunto narcotizzata e piantata, quindi fatta sbarcare in maniera coatta sull'isola di Nasso. E da allora piantare qualcuno in Nasso, che che poi però, visto che anticamente si scriveva tutto di seguito, perde una delle due N, perché a un certo punto il copista medievale non si rende più conto del perché ci siano due N. Ah, cioè in nasso a doppia N, certo. Chiaro. Esattamente, anche perché nella scrittura continua, che è quella con cui a noi tutta la tradizione classica è pervenuta, la doppia lettera non si scriveva, ma si metteva una lineetta o comunque un segnetto sopra la prima delle due lettere. Quindi è facile che un copista o non abbia visto o non abbia capito il perché di un segnetto sopra la N, e di conseguenza in è rimasto perché è preposizione riconosciuta da tutti, e questo asso da noi moderni è stato interpretato come l'asso dal valore 1 delle carte. Quindi questa è una bufala, una leggenda a tutti quanti gli effetti, non ha niente a che vedere con l'asso, ma si tratta di un toponimo perché è il nome di un'isola. E detto questo, hai un minuto e mezzo per la bufala a questo punto. È una mia ipotesi, quindi onori e oneri. Sei una ricercatrice, quindi le ipotesi fanno parte del tuo lavoro. Vai. Esattamente, secondo me è una variante di bubola che significa menzogna e che è accreditata dai dizionari etimologici, perché su bubola un'etimologia c'è, come legata a un nome di un sonaglio, a sua volta implicato con il verso dell'upupa, quindi con dei versi di tipo gutturale che poi dal punto di vista linguistico possono essere resi con u oppure con bu, e questa è una cosa che capita frequentemente. Ora, il passaggio buf bub è un passaggio frequentissimo che caratterizzava già il latino arcaico, basti pensare a bifolco, che nel latino arcaico troviamo sia come bubulcus che come bufulcus, quindi bubula, bufala sarebbero la stessa parola. Ora, cosa c'entra tutto questo col sonaglio? Il sonaglio è un oggetto che produce un rumore vuoto, un rumore inconsistente, e di conseguenza, per un traslato metaforico, questa inconsistenza è stata trasportata a cose che diciamo che sono prive di fondamento, che sono leggere, evanescenti come il suono di un sonaglio, vuote. Grazie, sei stata precisissima, adesso questa me la segno, me la devo ricordare. E può essere anche una tua, cioè è una tua intuizione, ma insomma ovviamente funziona, cioè nel racconto assolutamente pare che non sia una bufala, poi vedremo il tempo che cosa dirà. Grazie ancora Francesca Dragotto e buona domenica. Tra poco invece ci sarà Alberta Marzotto, perché parliamo di quelli che sono i luoghi comuni nella moda, quelli da sfatare. Ovviamente adesso gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. L'abito fa il monaco. Alberta Marzotto, grazie, buona domenica. Buongiorno, buona domenica anche a voi. Grazie anche per la pazienza, perché dovevamo sentirci un po' prima, ma sai che pensavo con l'argomento i luoghi comuni di non riempire la puntata, invece mi rendo conto che di cose da dire ce ne sono veramente moltissime. Dall'A alla Z, tutti i luoghi comuni da sfatare sulla moda, Mondadori. Allora Alberta, io comincerei subito dalle scarpe da tennis, perché ormai sono guai a non averle con l'abito elegante. Ma no, non è vero, no, è un vezzo che si può fare, che è accettato, però non è necessariamente uno deve farlo, cioè... Io sono per la massima libertà, però la scarpa a tennis con l'abito elegante anche no. Come no? Beruschi già lo faceva ai tempi di Drive-In, se non mi sbaglio. Parliamo quindi dei primi anni 90. Va bene, però non è che deve essere un esempio che va bene per tutti. Se uno fa un certo tipo di lavoro e si sente in ordine così, io sono ben venga, cioè, la scarpa da tennis col vestito elegante, però che non diventi proprio un'abitudine o un must da seguire. Guai non avere una borsa di Chanel. Beh, secondo me tutte queste affermazioni così categoriche non sono giuste, perché una può vivere benissimo anche senza la borsa di Chanel. Senti, perché è così di moda in questo momento? Cosa, la borsa di sì, Chanel? Sì, esatto. Ma anche rigorosamente falsa, perché rigorosamente poi... certo. Perché c'è un gruppo di persone che si chiama aspirational, che si sentono sicure mostrando questa borsa che è molto riconoscibile, quindi hanno raggiunto un certo livello di ricchezza o di stato sociale, per cui mostrare una Chanel anziché una Birkin di Hermès, anziché non so, una Vuitton, per loro vuol dire che sono arrivate lì. Soprattutto secondo me ha un grande successo anche nelle persone dei paesi emergenti, non parlo degli italiani, ecco. Ecco, mi diverto così a lanciarti dei luoghi comuni, no? Perché di quello stiamo parlando. Il nero va sempre bene? Il nero può essere anche molto noioso. Quindi tu, ecco, come cambieresti il nero, per esempio? Se posso con, il con il blu. Otteniamo lo stesso risultato, tu dici? Otteniamo lo stesso risultato essendo un po' meno noiosi. Oppure il nero cambierei con il color carne, che è un altro colore neutro. Però il nero sicuramente smagrisce, quindi vicino al nero ci metterai il blu. Ecco, perché... questa cosa è vera, il nero smagrisce, è vero. Il nero smagrisce è vero, che il nero sia rassicurante è anche vero, che sia triste è anche vero. Senti, Coco Chanel diceva, come scrivi tu, anche lo ripeti, la moda passa ma lo stile resta. Oggi allora lo stile che cos'è secondo te? Aspetta, ti stiamo perdendo, Alberta. Pronto? Ah, niente, cerchiamo di richiamarti, Alberta. Intanto, visto che dobbiamo ricercarla, vi faccio ascoltare questa canzone di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che si intitola così: basta che i luoghi comuni delle zone erogene. Scoprire luoghi inesplorati, mi sto preoccupando. Proviamo a mangiarci i gomiti, lasciamo gli amici attoniti, lecchiamoci le clavicole se vuoi. Spieghiamoci sul bicipite, amore che non ha limite, basta coi luoghi comuni delle zone erogene. Eccoli, il calzoncino divertente di Claudio Bisio, Vanessa Incontrada. Alberta Marzotto, ti abbiamo recuperata. Sì, ecco, io sono passata. Tra l'altro, momentaneamente, perché è una linea ballerina che cade spesso. Credo, fra l'altro, che le zone erogene sia l'ultimo capitolo del tuo libro. Esattamente, sì. Ci sono dei luoghi, sì, comuni che riguardano le zone erogene? Le nuove zone erogene per questa, per l'autunno, sono sicuramente la schiena. La schiena, perché secondo me è rimasta l'unica parte che non può essere chirurgicamente manipolata. E quindi tutto quello che è la parte dietro, non il davanti. È anche indicativo il fatto che va contro tendenza, perché quando la televisione fa dà tanto l'immagine della moda, la schiena è la parte del corpo meno telegenica, perché non viene mai esposta, e quindi vuol dire che c'è forse un cambiamento molto molto importante nel modo di concepire la zona erogena. Ecco, prima riprendevo la frase di Coco Chanel, che la moda passa ma lo stile resta, e quindi vorrei capire, secondo te, cos'è restato dello stile oggi? Lo stile oggi sta tornando, lo stile, finalmente, dopo anni e anni di veline, di scosciature, di scoperture, di moda urlata, sta tornando, secondo me, mentre la moda urla, lo stile sussurra, quindi sta tornando questo modo di porgersi, di comportarsi, di essere, che riflette la sostanza, non solo l'apparenza, e quindi è praticamente l'estetica che si trasforma in etica, è una conquista rara che mi sembra che stiamo piano raggiungendo. Ecco, lo dici anche nel tuo libro. L'ultima domanda, Alberta, e poi ti ringrazio e ti lascio, è questa: c'è qualche luogo comune che riguarda la moda che proprio detesti e vuoi sfatare? Secondo me il luogo comune che più mi dà fastidio è quando la gente pensa che la moda sia frivola, perché questo è il luogo comune in assoluto più radicato. Invece la moda sembra frivola, ma però la M maiuscola non è affatto, perché la moda è un fenomeno complesso che investe ogni aspetto della nostra vita. E quindi registra l'oggi mentre annuncia il domani, magari guardando a ieri. È frivola di una frivolezza però molto profonda, con le sue chicche, con i suoi ritmi. La moda è l'essenza del presente, e secondo me chiamare la moda frivola è un grande errore. Concordo, grazie Alberta Marzotto, buona domenica. Grazie Ciao. Mille, buona domenica anche a voi. A presto. Dalla A alla Z, tutti i luoghi comuni da sfatare sulla moda. L'abito fa il monaco, Mondadori. Fables, ciao, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno. Il nostro esperto di guerriglia marketing, di bufale sulla rete, se ne trovano a bizzeffe. Sì, sì. Una, per esempio. Ma guarda, ce n'è una molto divertente, di un paio d'anni fa, e racconta questa storia qui. Nel 2006, a New York, una persona partecipa alla sua prima seduta, alla sua prima esperienza di psicanalisi, durante la quale confida al suo psicanalista, insomma, di fare un sogno ricorrente durante il quale gli appare un uomo. un uomo che non conosce nella vita reale, ma che in quella inconscia, diciamo, che gli dispensa dei consigli privati. La donna prende una matita e disegna, diciamo, l'identikit di questa persona, consegnandola appunto allo psicanalista. Succede che qualche giorno dopo si verificano nuovamente questi episodi, vale a dire che un altro paziente da un'altra parte di New York fa la stessa operazione, va dallo psicanalista e disegna l'identikit di questa persona. Succede che a un certo punto questa notizia inizia un po' a diffondersi, perché insomma diverse persone da tutto il mondo iniziano ad avere la stessa esperienza, a sognare quindi questa persona. E a quel punto, ecco, iniziano anche a nascere, diciamo, diverse differenti teorie del perché le persone poi sognano questa persona, è proprio quella persona. C'è la teoria religiosa secondo cui in realtà quella persona non sia nient'altro che Dio. C'è la teoria dell'imitazione secondo cui, ok, mi faccio in qualche modo influenzare, cioè vale a dire vedo quel volto e in qualche modo poi rifaccio nuovamente il sogno con la stessa persona. E così via, insomma, iniziano a nascere diverse teorie, ma soprattutto iniziano a nascere anche diverse segnalazioni da parte di tutto il mondo e iniziano ad esserci anche delle affissioni in giro per diverse capitali europee e anche extraeuropee alla ricerca di questa persona per capire in realtà chi si c'è lì dietro. Nascono nuovamente teorie, c'è addirittura anche la teoria del Dream Surfer, secondo cui è una persona in grado comunque sia di, se vogliamo, di far credere in qualche modo di querci imporre il proprio sogno, imporre il proprio sogno agli altri. Esatto, imporre il nostro sogno. Passano ancora un po' di tempo, la realtà, poi la leggenda, come tante altre che hanno, se vogliamo, tutte quante le leggende che poi in qualche modo sono quelle che si diffondono nel miglior modo, sono quelle che hanno una parte di verità, una parte di verosimiglianza e una parte in qualche modo assurda che le rende, se vogliamo, interessanti. E questa leggenda le ha un po' tutte e tre. In realtà poi alla fine si svela il tutto quanto, questa faccia noi l'andiamo a ritrovare sul sito di un'agenzia di comunicazione il giorno in cui nasce il nuovo sito appunto di questa agenzia di comunicazione. Quindi sono stati molto bravi come sempre, insomma. Anche perché se vai a vedere il sito poi tra l'altro riesci a vedere tutta quanta, diciamo, l'uscita stampa che sono riusciti ad ottenere in 2 anni di operazione. Ecco, quindi c'è anche voluto tanto tempo, però in effetti sono riusciti a far parlare di loro tutto il mondo. Blogguerriglia.it è il sito per andare a scovare appunto non solo queste, che non sono soltanto bufole, ma anche modi per far parlare di sé in rete. Grazie Fables, so che ne è un'altra, ma adesso la citerò io, anche perché si lega a Paolo Attivissimo che abbiamo sentito prima e ne voglio parlare con Davide Paolini. Grazie Fables, ciao. Grazie a voi, buona giornata. L'ho nominato e quindi adesso ovviamente tocca a lui. Io sto col sughero. Il gastronauta. Eccoci qua, ciao Davide, buongiorno. Buona giornata a tutti. Allora, è comparsa una notizia tempo fa, anni fa ormai, parliamo di qualche anno fa, ma addirittura ripresa da moltissime testate, La Stampa, il TGcom e ancora altri giornali, dove si diceva che i biscotti olandesi sono fatti con il grasso della liposuzione. Beh, insomma, devo dire che chi sta sentendo questa tua notizia e ha mangiato quei biscotti forse corre in bagno, probabilmente, perché pensarci bene, insomma, io spero che questa notizia veramente sia magari di un unico produttore, non credo che si possa generalizzare. Ecco, io credo, no, ma era assolutamente una bufala, poi ovviamente, ma poi molte volte si generalizza, però, perché quando succede qualcosa, che ne so, la mozzarella italiana, il pomodoro italiano, cioè si prendono tutti, invece magari c'è un'azienda solo. Certo che non li ho mai mangiati quei biscotti, insomma, ti assicuro che... Consolati, non esistono comunque sia, per cui i biscotti olandesi possono essere mangiati tranquillamente. Senti Davide, in quello che è ovviamente l'enogastronomia, io credo che i luoghi comuni e le bufale siano veramente tante. Ma sai, distinguiamo tra le bufale e i luoghi comuni. I luoghi comuni sono molti di tutti i giorni, ma sono stati per anni pesce... vino bianco, carne, vino rosso, che col cioccolato non si può bere vino, che la pizza si deve assaggiare solo con la birra. Questi sono luoghi comuni, oppure che il vino rosso deve essere servito a 18-20 gradi, ecco, questo è il bianco invece a 14. Io credo che questi siano luoghi comuni. Sai, le bufale sono tante, nel senso che ogni tanto saltano fuori appunto notizie tipo questa, o magari di carni particolari che fanno dimagrire. Tempo fa mi ricordo che c'era, poi è apparso anche molte volte in televisione, non mi ricordo, sicuramente non era un italiano, era un immigrato che faceva un pane che se tu lo mangiavi non solo non ingrassavi ma dimagrivi. Ecco, io credo come potesse essere quel fatto lì, veramente sono ancora incredulo, però lui, mi ricordo, è apparsa in televisione, è apparsa su molti giornali questa notizia. Oppure io credo che le grandi bufale siano le diete. Le diete credo che siano le più grandi bufale che girano, diciamo, non è enogastronomia, ma è un modo di vita. Sento gente che va a fare 10 giorni, dimagrisce 40 kg e poi immediatamente li riprende tutti. 7 kg in 7 giorni, c'è stato anche un film molto famoso che lo racconta. Ecco, io credo che queste siano le bufale molto sull'alimentazione. Ogni tanto poi saltano fuori delle cose ancora più incredibili, che magari ci sono dei prodotti che fanno aumentare il colesterolo, e dopo 3 mesi ti esce una ricerca magari di un'università americana sperduta, o scandinava, o russa, non so cosa, che ti dice il contrario. Ecco, io su questo veramente più volte ho detto, ci vorrebbe un'autority scientifica che, prima di mettere sul circuito della comunicazione queste notizie, dovrebbe ben controllarle, perché c'è molta gente ovviamente che, vedendo magari il sigillo di una università o di un qualcosa di simile, immediatamente ci crede. Ecco, c'è un luogo comune che vuoi assolutamente sfatare, Davide, che proprio ti dà fastidio sentire? Ma diciamo che quello che mi dà fastidio sono gli abbinamenti. Io, tu sai che l'ho detto più volte, io sono per una gastronomia democratica, cioè ognuno si deve creare il proprio punto G, che è il punto del gastronauta, cioè dire di andare a cercare negli abbinamenti quello che a lui più piace, e non sentire né noi gastronomi o critici gastronomici, né leggere le bibbie della gastronomia, ma provarle su se stesso. Io credo che questo sia, come posso dire, quello che voglio smentire. Non accettate mai le cose, gli abbinamenti che sono quelli che assolutamente sono i più sponsorizzati. Cercate di farvene uno vostro, perché molte volte succede che magari non vi piace quello consigliato un po' da tutti e ne scoprite uno vostro. Ecco, io credo questo, che bisogna smentire un po' tutto quello che viene detto, se non sperimentato su noi stessi. Ecco, senti, io sto così leggendo dei luoghi comuni scritti sul vino. Andrea Ballarini è stato il nostro primo ospite, e le cose da dire, per esempio, sempre sono: un vino rosso ha sempre un gran corpo, bisogna dirlo per fare bella figura. Sei d'accordo? Ma sì, cioè devo dire che, appunto, ti dico che questo fa parte dei luoghi comuni di chi legge le etichette dietro e magari ha letto delle recensioni, e allora dice questo per fare bella figura. Molte volte, cioè, dire che ha un gran corpo, secondo me, può essere anche un effetto negativo, nel senso che gran corpo molte volte significa un'altissima gradazione, e molti vini che hanno grande gradazione hanno un tasso alcolico molto alto, e magari c'è un alcol, come posso dire, che viaggia per conto suo, quindi bisogna stare attenti anche su questo. Come sempre poi dipende dal vino. È vero che un uomo che sa ordinare una bottiglia di vino fa sempre il suo effetto? Devo dire di sì, però ecco, io su questo te lo preannuncio, sì, farò una trasmissione radiofonica e lo preannuncio ai gastronauti e ai radioascoltatori. Ultimamente è uscita un'indagine che dice che sono gli uomini che ordinano sempre il vino e sono quelli che decidono. Io sono invece convinto dell'opposto, che la nuova generazione, questo nuovo trend, sono le donne che guidano la danza, perché se tu vai a vedere nei wine bar alle 6 di sera, vedi moltissime donne a sedere che si ordinano il loro vino e tra di loro bevono il vino e parlano di quel vino. E sempre più a tavola non è l'uomo deciso che dice voglio questo, ma molte volte ci sono anche signore e signorine che dicono la loro. Ed è finita l'era in cui le donne ordinavano un rosé, perché non era né rosso né bianco, e quindi pensavo fosse il colore che a loro visto le quote rosa. Beh, certo, corre giusto, forse, diciamo. Ecco. Oggi non lo ordinano più il rosé, anzi, ordinano anche dei vini importanti. Beh. E devo dire che ci sono moltissime donne sommelier che veramente sono bravissime. In ultimo ti posso dire, vabbè, svelerò una cosa che dirò nella mia, farò dire nella mia trasmissione, che anni fa c'è stata una ricerca di una università americana, magari anche questa inventata che poi è stata smentita, che analizzando il cervello delle donne, le donne hanno capacità degustative superiori agli uomini. Ecco, vedi, adesso quindi si parlerà di questo, non so in quale puntata, comunque Gastronauta ogni sabato alle 11. Fra 15 giorni. Ecco, quindi fra due puntate, però è vero che una donna che sa scegliere una bottiglia di vino, insomma, un po' ti stupisce e ti affascina, questo è vero, almeno per me. Ma funziona specialmente, così. Specialmente se ti dice il vitigno e poi ti dice magari anche l'azienda. Vabbè, lì, oppure ti legge la carta e indica l'annata. Ci sono, eh. Lo so che ci sono. Ciao Davide, grazie, ciao. A presto. Buona domenica. Presto. Ciao. E tra poco giochiamo, vi ricordo il numero 800 24 00 24. Volevo salutare un'ascoltatrice, si chiama Oriana, perché dici, io se c'è un luogo comune che detesto, e quando parlo con le mie amiche, lei ha 56 anni e dicono i giovani sono cambiati, ma è ovvio, cioè sempre si cambia costantemente, è una banalità che lei non riesce più a sopportare. Il riposo del guerriero. Cominciamo immediatamente con il mistero, se no è 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. Fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Dovete riuscire a scoprire cosa o chi si cela dietro il mistero. Può essere una notizia della settimana oppure qualcosa di conosciuto, un personaggio o un oggetto. Il numero per partecipare è 800 24 00 24 ed ecco il primo indizio. Dolce morbidì. Nessuno t'ha baciata mai. Grande Moby Dick, regina madre, segui le stelle che sai. Non fidarti della croce del sud, la caccia non finisce mai. Eccolo qui, il banco del mutuo soccorso con Moby Dick. Questo è il primo indizio. Claudio da Roma, ciao, buona giornata. Ciao, buongiorno. Allora Claudio, siamo a 1000 euro. Che cosa vuoi fare? Non chiedo altri indizi, se no mi confondi le idee. Dovrei aiutarti, non confondere. Però va bene così, vai. Allora, dico la vittoria del Santos in Coppa Libertadores della settimana. Grazie Claudio, buona giornata. Come sai non posso dirti nulla, ciao, nel senso che la risposta giusta la scopriremo al 24esimo minuto. Se fosse giusta quella di Claudio, il premio vinto sarebbero i 1000 euro. Guido da Rovigo, buongiorno. Ciao Guido, allora siamo ancora a 1000 euro. Come vedi Claudio non ha voluto far diminuire il premio, ma tu? Io vorrei un altro indizio. Eccolo qua, vedi che c'era qualcuno che l'avrebbe dimezzato. Eccolo qui, è Guido. Guido da Rovigo dimezza il premio, il secondo indizio. Ti porta in secca o in alto mare, come la luna va. Non ho barato né beffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. Uno su mille ce la fa. Adesso quando sento Morandi che canta mi viene in mente sempre Stiamo Uniti, che era la frase che a Sanremo continuava a dire, solo quella. Allora, Guido, io ti lascio pensare gli aggiornamenti sul traffico e poi mi dai la tua risposta. Un mistero in 24 minuti. Allora Guido, hai pensato? Sì, ovviamente il secondo indizio mi ha fatto cambiare completamente. E beh, è servito per quello, no? Era uno su mille, Gianni Morandi. Dico, questo scrittore, John Locke, che ha venduto un milione, ha avuto un milione di download per un ebook scritto da lui. Grazie Guido, vedi la forza della rete. Ciao, buona domenica. Ciao. Ciao. Sarebbero 500 euro. Giampiero, dalla provincia di Varese. Sì, ciao Stefano. Ciao Giampiero, buongiorno. Mi sento un po' male, però. Mi senti? Sì, ma certo che ci sentiamo. Cosa vuoi fare? Ma guarda, io ho già, per così, un sogno che sarebbe la soluzione. Allora, quindi non vuoi ascoltare nessun indizio? No, non voglio, perché ero un po' indeciso su tre opzioni, poi l'aiuto mi ha già, per così dire, dato... Messo sulla strada giusta. Sentiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento, quali sono stati. Grande Moby Dick, dove saranno tutti gli amanti che hai? Uno su mille ce la fa. Eccoci Gian Piero, ecco i due indizi e tu cosa dici? Allora, la notizia è che c'era stato un imprenditore, un certo signor Giuseppe Pizza, il quale abitava a Collodi, in uno stato abbastanza drammatico sostanzialmente, abitava in una casa un po' traballante e più persone tentavano di aiutarlo. Poi l'hanno ricoverato all'ospizio e quando hanno aperto il testamento dopo la morte hanno scoperto che era molto ricco e il suo testamento dedicava praticamente tutti i suoi soldi all'ASL per aiutare gli anziani sostanzialmente. Quindi uno su mille ce la fa materialmente anche a sopravvivere in uno stato abbastanza indecente, per così dire. Poi alla fine è stato veramente generoso perché non aveva, per così dire, praticamente eredi e quindi ha lasciato tutto, certo, ai poveri, a chi ne poteva avere davvero bisogno. Grazie Gian Piero, certo, anche per la notizia e non posso dire nulla. Buona giornata. Grazie, okay. Ciao Fulvio, allora, da Ferrara. Ciao, buongiorno. Fulvio, abbiamo due indizi, qualche risposta anche curiosa. Devo dire che le risposte di oggi sono tutte interessanti. Ma io ho già un'idea, fin dall'inizio, quindi vado avanti con questa. Vai, Fulvio. Io voglio dire il matrimonio della ministra Carfagna. C'eri anche tu? No, non ero fra i 250 invitati. Non è che ci tenessi particolarmente, ti dico la verità. Io lo chiedo, sai, magari. Grazie, Fulvio. Niente, ciao. Buona giornata. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Non gli ho chiesto perché il matrimonio, visto che la prima indicazione era Moby Dick e non credo abbia niente a che fare con la Carfagna, almeno spero. Diego da Roma, buona giornata, ciao. Scusami, ma associare la Carfagna a Moby Dick mi fa ridere perché non ci vedo l'associazione, insomma, ecco. Allora, se me è il contrario, se lei è magrissima, è un filo. Allora, Diego, che cosa vuoi fare? I due indizi li abbiamo scoperti. Io pensavo, ti faccio ridere anch'io, ma pensavo pure io al matrimonio della Carfagna. Ma l'hanno già detto, guarda. Infatti l'ho sentito. E allora sì, cerco un altro indizio. Certo. Allora andiamo a 300 euro. Guardalo un po', un Ettore Petrolini, del tempo che fu. Gastone, sei del cinema il padrone. Gastone. Gastone, ho le donne a profusione e ne faccio collezione. Gastone, Gastone. Un personaggio indimenticato, ovviamente, questo dietro del Petrolino, il suo Gastone. Allora, Diego, che cosa pensi? Non mi viene probabilmente nulla, guarda. E guarda che questo è un indizio che proprio... infatti sì, stavo pensando agli amori, pensavo a qualcuno che magari appunto avesse avuto qualche storia... Con Gastone? Con tante donne, con Gastone è un po' difficile, però no. Sto proprio spiazzato, no? Diego, goditi la tua città oggi che sarà un sole straordinario, ecco. Stupendo. E infatti, e quindi così, prenditi una bella boccata d'aria, bevi qualcosa e fallo anche per me. Ciao Diego, ciao. Buona giornata, ciao. Stefania, buongiorno. Buongiorno, ciao. Anche Stefania è a Roma. Allora, Stefania. Senti, quest'ultimo indizio mi ha messo veramente in difficoltà perché io l'avevo una risposta da dare e a questo punto la do lo stesso, però quest'ultimo indizio mi mette... Senti, io direi il personaggio e sarebbe Mario Draghi, perché la balena, la banca del mutuo. Certo, guarda che ci sei col primo indizio. Adesso ho aiutato tutti gli altri, ovviamente. Il secondo, uno su mille, ce la fa. Hai ragione. Mario Draghi, e su questo terzo comunque la risposta è questa. Magari si chiama Mario Gastone Draghi, cosa ne sai? Ciao. Non lo so. Brava Stefania, non posso dirti niente. Buona giornata. Ciao. Camilla da Torino, buongiorno. Buongiorno. Allora, Camilla. Dunque, anche a me ovviamente il terzo indizio ha spiazzato parecchio perché mi ha fatto cambiare completamente l'opzione. Sì. E quindi in realtà io direi, mi atterrei alla prima cosa che mi è venuta in mente, sì, che sarebbe la proposta di legge che ha posto dei limiti agli sconti sulla vendita dei libri, anche se in realtà con l'ultimo indizio non so che cosa posso centrare. Infatti non molto, è vero. Non molto, va bene. Grazie Camilla, buona giornata. Altrettanto. Del resto, dalla città che ospita il Salone Internazionale del Libro, ci si poteva aspettare una risposta così. Marina, dalla provincia di Reggio Emilia. Sì, ciao. Ciao Marina, tu ce l'hai la risposta giusta, vero? Ce l'hai la risposta giusta, no? Dio, non proprio, non è che si può sentire un altro indizio. Guarda, si potrebbe anche, ma abbiamo un minuto di tempo. Vabbè, ascoltiamolo, dai, eccolo qui, quarto indizio. Proteggerò dalle paure dell'ipocondria. Povero Battiato, non volevo rovinare. Allora, questa era la cura di Battiato. È finito il tempo, mi devi dare una risposta, Marina. Sì, guarda, la sparo perché proprio non sono riuscita a mettere insieme i testi. Il cantante Moby che ha preso la sposta. Grazie, no Marina, buona domenica, sì, ciao, grazie, niente da fare, purtroppo, eccoci qua con la risposta giusta, ve la do io, ovviamente. Allora, il banco di mutuo soccorso, la risposta era la banca, in effetti la banca era l'elemento del primo indizio, uno su mille perché c'è un dollaro, Gastone perché tutto è successo a Gastonia, che è un posto in North Carolina, insomma un uomo ha rubato in banca un dollaro per farsi arrestare e farsi curare, perché era l'unico modo per poter essere curato. Da questo il quarto indizio. Questa era la notizia. Mi dispiace, nessuno ha vinto, però insomma settimana prossima ci sono ancora 1.000 euro per voi. Grazie a tutti voi, ovviamente a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Marco Lombardo, la regia di Pietro Lacorte. Noi ci sentiamo domenica prossima puntuali come sempre col Riposo del Guerriero alle 10:00.